attenzione, finalmente c'è qualcuno, cambio. Attenzione, binario 10, cambio. Trento, doppio room. Beh, in mai macchina, sì. Aspettina, oh yeah. Io non sto entrando perché non mi sento bene già. Adesso? Sì, io sono caduto stamattina. Se sei andato è pure giù. Io sono sempre a dolori, no. Iniziamo come. Non sto entrando, capito? Ciao, ciao. E cosa che non posso stare, ho già no, sarei voluto venire ma no, sono addolorato. Ciao ragazzi. Beh, com'è la giornata? Marco! Ciao già, qua sembra tutto azzurro il cielo, dalla finestra, io sono in pigiama ancora. La felicità del giorno, no? E non si può dire che non abbia dormito, stanotte già ho dormito. Ma tu sei fermo, Flex? In letargo sono. Ciao, gaba. Non ci scendi a Platamon, ho visto che è già tardi, dai. Magari vado stasera. Ascolta, già, mi sai dire se c'è vento oggi oppure se oggi è calmo il vento? No, è calmo, Marco, non ce n'è vento. Inteso, Natale, questa è giornata bella per andare in campagna, mi o a Platamona. E infatti, io sono già due te, ma vi ho fatto un giro. Tutto insieme. Almeno prendi un po' di sole, un po' di cose. Io è perché non posso uscire che sono un po' messo male, se no sarei andato anche io. Ma il sole ti fa passare i dolori, mi Natale. Se non stai al sole, i dolori non ti passano. E c'ho cosa grave, ciò non è affare di poco conto, mi diciamo così. Sì, non lavora, e cosa va? Che roba rompia, hai già. No, ma non lo puoi sapere, devi fare prima gli esami. Sì. Vediamo un po'. Ma la storia delle bene, Natalia. No, la vescica è... Ho fatto un'ecografia e mi hanno trovato roba e bisogna che devo fare la visita urologica, una cistoscopia devo fare. Chissà cosa mala sorte è. Cazzarola. Sì. Qua, sono messo male. Mi dispiace, vabbè, dai, magari non è niente di importante, dai. Speriamo. Magari solo la cistemi, un ispessimento, che ne sai? Non è detto che sia una cosa infausta. Natalino è drammatico sempre. Non è drammatico, no. Cazzo, è la realtà dei fatti. C'è una formazione, c'è nella vescica. E bisogna approfondire a vedere cosa mala sorte è. E perché mi provoca questi dolori così? Sono a forza di Brufen, non ti dico altro. Ma dolore ti dà, Natalia? E allora, sono tutta la notte senza dormire. Poi non ne manca mai. E infatti. In questo modo possiamo... Oh già, invece a me mi avevano trovato per puro caso un diverticolo alla vescica. E beh, poi cosa hai fatto? Ti sei operato? No, non c'era il tanto, no, rimane lì, ogni tanto sì, può darti leggermente un po' di fastidietto, bruciore, magari rimane un po' di pipì dentro, no, il diverticolo sai che è verso l'esterno, no, con una sacchetta, e se n'era accorto l'urologo quando aveva tolto lo stent quella volta dei calcoli grossi che ho avuto. Aveva tolto quello stent che va dal rene alla vescica, l'aveva sfilato con le pince e guardando la vescica dice, è questo così, dice, ah, un diverticolo. Vedevi come una specie di apertura, no? Sul lato della cosa e c'è la sacchetta intorno, così sono i diverticoli, cioè non vanno verso l'interno, vanno verso l'esterno della vescica o anche dell'intestino, dai, per chi ce l'ha l'intestino. Sì, ho capito, io sto parlando col microfono sopra la gamba, mi senti? Sì, ti sentiamo. Questo qua è il microfono normale, sto parlando, normalmente sto guidando e parlando col microfono sulla gamba. Beh, infatti la prossima volta provo anch'io. Mi porto il 3009 e l'amplificato, quello KPO, quello esce bene il radio. Così non mi devo fare le segmentali, no, e avere paura che mi veda la stradale o chissà chi. Ma lo sai che a me quel KPO sono andato a cambiare la batteria, praticamente si è rotto il coso del PCT, si è rotto quel pirillino dove si infila il buco del PCT. Sì, il perno, ma l'avevi messo a posto anche, avevi messo cosa, una vite tipo... Sì, vabbè, poi ce lo sai che mi arrangio e l'ho messo a posto, ti ho messo una vitina e va bene lo stesso. Purtroppo questi amplificati già, e a me il DM1000, ti ricordi? I fili troppo sottili, e vado a togliere la batteria e si stacca il cavettino. Ti ricordi che me l'ho buriata e te l'avevo dato così, però funzionante. Ci bastava mettere l'attacco della pila da 9 nuovo e funzionava. Però troppo sottili i fili. Guarda, non avevo mai visto un microfono amplificato con i cavi così sottili all'interno. Io mi sono appentato e l'ho messo tutti più grossi, a parte fini, sono anche tessari, proprio duri, si spettano su. E quello lo sai perché? Perché anziché mettere i filettini di rame intrecciati, ci mettono questa specie di filettino di ferro unico, che praticamente con la torsione si spezza, si interrompe. È una specie di ferraccio finto rame, addirittura lo ramano appena per fargli, l'ho visto anche in altri prodotti, lo ramano appena appena per fargli avere l'aspetto del rame, ma in realtà non è rame, capito? Io due ne ho fatto rinascere di microfoni tuoi, li ho riesumati. Ehi, quello sì, quello che è sciacquuto anche. E io mi burio subito già, come vedo. E poi a me la timbrica non mi è mai piaciuta, su di me, io ho la voce acuta di più, non mi piace la timbrica di quello, già hai capito come si chiama, quello americano, vabbè. Natalino, riprendi. Io ho chiuso la telefonata, avevamo sempre la telefonata in corso su WhatsApp. E infatti te la volevo chiedere, se invece poi ho visto che si è chiusa, ok, va bene. Sì, oggi per la giornata adesso vediamo il da farsi, dai. Io sto andando, poi c'è il quadrante. Ehi, già, stavo notando che c'hai appena appena di scarichette, forse il PTT. Un pochino di scarichette, come vediamo se mi viene a me. Così, mi... Come che muovici TTT? Non sai cos'è, che magari non lo schiaccio bene, guarda adesso che ce l'ho davanti alla bocca. No, adesso meglio, sì. E qual è quello? Quello è il KPO? No, questo qua è il microfono normale del Magnum. Ah, quindi quello che pompa è l'apparato, non il mic, ok. Esatto. Ebbene, l'Omega Force pompava forte, mi ricordo l'Omega Force per esempio, pompava forte, però a lasciarlo in casa era un po' un problema, quello sì che era invasivo, capito? Capisci a me? Quello lì è quello che ci aveva Sandro Tire, no? Esatto, però non mi ha ispirato più di tanto. Era come avere un 48 col doppio modulatore, cioè mi sentivano anche nelle casse di computer, capito? E chissà dove altro. Sandro si era lamentato che scaldava molto, infatti gli aveva fatto fare una modifica, gli aveva fatto mettere la ventola di raffreddamento. Eh sì, scaldava a bestia, scaldava, mi ricordo. È un po' come il 9009, il CRT 9009 scalda a bestia, ma io sai cosa facevo? Li poggiavo la ventolina attaccata con un elastico, così proprio volante mi. E allora sì che raffreddava bene. Poi mi pare che era passato a Natale quello lì, no? Solo che in effetti lasciarlo a casa quello era un problema, perché quello veramente buttava tante di quella mondezza, di quelle spurie. Vabbè, io adesso mi sono fermato, così posso parlare tranquillamente. Dai, adesso me l'ho avvicinata alla bocca, cambia molto. Beh, avvicino la bocca un po' più forte, però le scariche persistono, tipo così, mi... Sempre scariche sta facendo, wow, anche io non me le sento queste scariche. Ora, e c'ho il viva voce. No, magari tu non te ne accorgi. No, al momento no, adesso no, al momento le fa. Te l'ho detto, è simile a questo. Ecco, come guarda avanti e indietro col PTT, no, ma basta spruzzargli appena appena di non ciricie, per carità, il Dreycop, quello disossidante secco, e te lo fa come nuovo. Allora Marco, allora, ti spiego. Questo microfono ha il PTT molto sensibile, se non lo schiacci bene c'ha questo problema. Adesso io ce l'ho davanti alla bocca e sto schiacciando bene, guarda a vedere se sta uscendo male. Pronto? Un attimino, è che stavo parlando con mamma. Cosa mi hai chiesto? Ho detto che questo microfono ha il PTT che è molto sensibile, come lo tocchi subito parte, capito? E a volte se non lo premi bene fa questo difetto, perché lo premi e lo mulli quando ce l'hai sopra il ginocchio, fa questo effetto qua, perché non ti regoli bene, capito? Nella premuta, invece se ce l'hai davanti alla bocca non lo fa. Cappa, io l'altro giorno avevo tarato, ero andato al tappetino perché era lunedì mattina, c'era Piazza dei Segni con le bancarelle, allora sono andato al tappetino e praticamente l'antenna 9 metri era già tarata, quella invece lunga richiedeva un ritocchino, perché te l'avevo già detto, con la presa accendi sigari mi cambiava le stazionarie, adesso è perfetta. E così era tarata anche quell'altra, la copia di quella lunga, però che rendeva meno, se ti ricordi, che quella volta dalla campagna mi segnava tipo un Santiago in meno. Pensa, come ti avevo già detto, antenne uguali apparentemente, e una era un Santiago più bassa, immaginati, messa sulla stessa base, vabbè. Dipende sempre dalla carica come la fai, capito? Sì, perché l'antenna, quelle antenne sono di una semplicità, è praticamente uno stilo d'acciaio, lì basta che la bobina sia fatta poco bene e cambia molto la storia, altro che. Natalino, riprendi. Io mi stavo mettendo a posto un po' di cavi qua, che c'è la centrale elettrica. E lì è davvero una centrale elettrica lì. Io parlavo così di camera mia, che in realtà poi non è così drammatica, dai. Ma dietro la TV c'ho tanti di quei cavi che non so manco cosa sono, cosa siano. Cavi anche che non uso più, mi spiega a basso ricevitore. Se non sento più il doppio che voi. Infatti, adesso che mi ho fatto il computer come si deve, già non me lo posso neanche godere. Se muoio, cazzo, rimane a mia moglie, quello che mi dispiace è quello. Ma non pensare a queste cose, è tutto, c'è la soluzione. Poi adesso come adesso, anche se c'hai qualcosa dentro, lo tolgono e via. Io ho capito, stavo scherzando. Mi ho fatto un computer di lusso veramente, perché l'altro no, era troppo vecchio, cioè aveva 15 anni. E allora me l'ho fatto nuovo. Te l'hai fatto tu? Fatto tu. Ia. Però se lo vedi è una belva questa. Mi ho comprato il chiese nuovo, tutti i pezzi e me lo sono costruito. Figli non ne vedi, no, sono tutti dietro, perché è di concezione nuova, il chiese, e quindi tutti i cavi sono dietro, non si vede niente, c'è il coso che si vede dove c'è la scheda madre, la scheda video, c'ha quattro ventole che si accendono, già, veramente è bello il sito. Ho capito, ci puoi anche giocare con questo, perché è potentissimo. No, lo so io, quello bello mi quando c'ha lo schermo grande, mi hai detto, quando non sei concetta, ti connetti a OnlyFans, ti fanno vedere tutto, i piedi, il QSO, tutto. Come si chiama OnlyFans? OnlyFans, mi pare, con la C finale, è che devi pagare per vedere, capito? No, si da pagano, non ha nessuna parte io. E c'ho il monitor che è 27 pollici. È grande il monitor. Marco, ma questi siti guardate. però io non ne guardo, è lui che è maligno, questo Marcolino. No, no, quelli no, quelli a pagamento no, quelli gratis sì. Oh, a parte gli scherzi, adesso la cosa triste è che molte ragazze, molto, molto giovani anche, che non hanno né arte né parte, che non sanno fare nulla, che non hanno studiato, si stanno tutte buttando a fare queste cose qua, a fare praticamente le porno star o prostituzione, perché alla fine se tu vendi, cioè, fai vedere parti del tuo corpo intime a pagamento è come prostituirsi, stanno scegliendo la via facile per fare i soldi e stanno sempre più aumentando. Hanno visto che sono soldi grassi, sono soldi facili. Sì, perché io dico, cosa vuoi che sia, li faccio vedere i piedi, ci sono quelli che vogliono vedere i piedi e già ti pagano bene, poi però si passa, cominci a far vedere altro, cominci a far vedere sempre di più, alla fine non esci più, però ti fai soldi, magari, chi lo sa, fossi nata donna un po' bellina, magari l'avrei fatto anch'io. A che punto stiamo arrivando? Oramai quello che prima era un tabù è tutto facile, Natali. Davvero però è tutta una cosa normale, quando vuoi basta che paghi. Allora tutto a fare di soldi, certo. Sta venendo a Lugo, si è parcheggiato davanti a me il pullman, mi ascoltate sempre bene? Eia, sta arrivando una bomba qua da parte mia, piazzale Segni, cambio. Ho già, l'ho notato anch'io, certe volte vado a tarare antenne a Piazzale Segni, no? C'è il pomeriggio che non vedo un'anima, tutto Piazzale Segni vuoto, arriva una macchina dove va a parcheggiare a fianco o dietro, in modo che mi altera le stazionarie e mi devo spostare io. Sì che è una macchina, pazienza Marco, ma quando è un pullman ti blocca le onde proprio. E interferisce un po', vabbè, sì, ti alza gli stazionari e può fare da schermo, perché il pullman è grosso, se l'interlocutore magari è nella direzione stessa del pullman, magari un po' ti scherma. Ma io adesso l'ho superato e mi sono messo davanti io, c'è mille luci. Meno male che c'è ancora qualcuno vivo al baracchino, ogni tanto chiami tu, no? Io chiamo anche la sera ma non risponde nessuno, quindi... Poi Natalia ha detto che non sta entrando perché non sta bene, quindi solitamente sentivo a lui, poi entravano gli altri, ma se non entra nessuno, capito? Quello è, io non stavo entrando perché non mi sentivo bene già, magari trovano a me e allora entrano, se non trovano a nessuno poi anda e muri la frequenza di Ruzzuttu. Questo Marcolino lo stesso non entra, e cosa vuoi che ti dica? Quindi cerca di vivere a lungo, se no poi la frequenza muore anche lì. Comunque Natali, meglio essere previdenti, a chi lasci tutte le radio? A te le lascio, lo sai, no? No, io non ci ho posto, io già qua, sembra il magazzino di GBC qua. Allora gli dico a mia moglie di buttarle nel cassonetto verde, indifferenziata. No, io l'ho già detto, vabbè, non c'è niente di scritto. Se crepo io, vabbè, Pomponio le avevo promesso. Tutte le radio a Pomponio. Sezione armamenti invece a Natalino. Cazzo, se muoio io, cazzo, devo dare le armi, non so a chi darle, cazzo, che ci vuole il portalarmi, maledizione. Al poligono potresti, vabbè, tocca a ferro, lascia bene, non lasciare, non fare testamento che porta male, la volta che lo fai è la volta buona, non è fare. Non ne faccio testamento, no? Non ne faccio, solo che se muoio cazzo è un casotto, perché con la denuncia solo non si possono più tenere. Ma quelle si possono donare al poligono, boh. Vabbè, è qualcuno che ha il porto d'armi, le dai, le lasci. Stanno praticamente, tanto mia, anche se ce l'hai non ti puoi difendere, perché anche se ti difendi ti fanno 20 anni di processo, di coso, se ti possono... C'è una cosa allucinante, cioè se sei costretto a difenderti e usarla magari l'ammazzi, il ladro, il rapinatore, quello che è, ti fanno passare un calvario, come si dice, un calvario lei fa, già capito, no? Ti devi difenderti in tribunale dal fatto di esserti dovuto difendere. E vabbè, sembra un controsenso, è così. E in Italia è così. E cosa vuoi fare? Dipende da come la ammazzi a uno. Marcino il padrone, non so se è 100.000 euro, una cosa del genere. Aspetta, ripeti già, avete parlato in due, ho capito solo il padrone è 100.000 euro, capito? Ho detto che praticamente questo qua, questo ladro, è stato morsicato in questa villa, che è entrato a rubare. E praticamente hanno condannato il padrone, deve pagare i danni. Sì, ma questa è follia, cioè lui è entrato non per una professione, per lavorare, è entrato abusivamente, violando il domicilio, la zanna e il cane lo devi pure pagare, guarda che l'Italia è una barzelletta, perciò siamo nelle condizioni in cui siamo, con la mafia nigeriana che è praticamente via coso è uguale a prima, peggio di prima, anzi, via, come si chiama, quella della sparatoria, Natalia, aiutami. Sì, non lo so dove è successa questa sparatura. Sarà al centro storico, così è. Dai, dove c'era anche la Fainé, via, come si chiama? Uffa, quella Fainé dove volevate andare quella volta? Perché è San Donato. Bravo, San Donato, a parte dopo la sparatoria sì, un po' di polizia, è peggio di prima. Allora, pochi giorni fa c'era un articolo sulla Nuova Sardegna dei residenti che hanno detto che praticamente alla fine se ne andranno, lasceranno le case o le affitteranno perché lì è invivibile. Hanno distrutto le fioriere che avevano messo in segno di pace, ogni notte risse, cose, minacce, ti pisciano e cagano davanti, scusate il termine, davanti alle porte di casa, sempre i negracci, non solo i negracci, anche i ragazzacci del luogo lo fanno. Infatti mia moglie si priva di andare a comprarsi la Fainé dove la compravamo prima, perché lì devi passare tutto via San Donato, no? E quello lì è proprio all'uscita del corso, rimane quello, e quello la faceva buona la Fainé, Antonio. Lì non puoi andare di sera a tardi al buio, anche i visori negri, gli abbiamo poco di spacciatori, di tutta ciò. E guarda, di sera, soprattutto sai quando prendi la Fainé in inverno che fa buio presto, una donna da sola lì non è raccomandabile che vada, assolutamente. Poi questi neri hanno sempre fame sessuale, capito? Si attaccano a tutte. E allora, cosa stai lì a tirare alla lunga? No, non si può più andare a che si basi. La gente, dimmi, vogliono abbandonare veramente le case, la gente lì. Perché non si può vivere. Io ho un'amica che abita lì vicino dove fanno la Fainé e ha detto che se ne vuole andare. E la casa è sua. Purtroppo non possono stendere manco la roba, che gli rubano i pantaloni, le maglie, tutto quanto li ruba. Io qui sono avvicinato perché è la creme della città, che non mi piace molto un valore. Passa via. Mi siete sovrappopolati. Ho detto, queste sono le risorse della Boldrini, la massa in ascenda. A casa detta devi andare. Che se li corichi nel letto a vedere quanto sono utili come risorse. Magari a lei ti piace pure. Beh, quei negroni gli piacciono sì, a lei, se troia. Troia, provaridade. Avanti Marco. Meno male che noi ci scherziamo sopra, però immagina abitare lì, se ne vogliono andare, perché ogni giorno che escono da casa sono a rischio rissa, a rischio minacce, ritorsioni, è una cosa continua, non vivi lì. E purtroppo, ascolta, io fosse per me, poi dice, ma così, no, avrei mandato l'esercito. Ammazzate malamente, esco, tantami, gli unici, alla fine gli unici cose che funzionano, metodi che funzionano, sono quelli a quanto pare, le bastonate, come durante il fascismo, cosa vuoi ti dica? No, che dopo dicono che ti hanno torturato, ragazzi, finisce in galera il poliziotto. Guarda, avevo visto poco tempo fa, non so se fosse Roma, un carabiniere che stava indietreggiando, c'aveva la pistola in mano, puntata in aria però. Questi romani non erano nemmeno i fuori, era gente, delinquenti locali, che stavano inveendo contro di lui, li stavano lanciando contro, stavano andando con il cassonetto tipo ariete contro di lui, uno ha tirato anche la bottiglia, ha preso il carabiniere in testa. Beh, questo carabiniere è dovuto scappare, nonostante fosse armato, perché loro si usano l'arma, anche lì un calvario giudiziario per loro che non finisce più, capito? E si stanno anche difendendo, li fanno un calvario giudiziario, quindi proprio quella, e quella era proprio l'immagine della sconfitta di uno Stato. E infatti mi pare che tu possi andare a tirare la bottiglia al carabiniere e lui non ti possa ammazzare, ma stiamo scherzando. Allora vedi, manco lavorare possono questi, ma per quello dopo quando i telefoni non ci vengono, perché non possono fare nulla. Poterlo documentare che sono stati loro per primi a sparare. Sì, vabbè, già, lo so, però cioè, loro ti possono anche ammassare con una bottiglia rotta, pestandoti, cioè fallo negli Stati Uniti, una cosa del genere, fallo anche negli Stati Uniti, lì ti scrivellano di colpi. Addirittura l'altro giorno ho letto di un nero, ovviamente un nero, sempre i neri ci passano, dice li hanno piantati in corpo roba di 59 colpi, o quanti erano, cioè lì anche sono, è l'opposto di qua, i poliziotti sono degli scoppiati, perché se tu c'è una pistola, è inutile che spari 20 colpi contro una persona che magari è già a terra, dopo i primi 1, 2, 3 colpi sarà già a terra, esanime, e quelli continuando a sparare, roba di 59 colpi li hanno trovati in corpo. Sprecano le cartucce. Infatti, l'hanno un po' appesantito. Sì, perché lì sparano, quando sparano negli Stati Uniti, non è che sparano l'impazzata, non hai mai visto i video dei poliziotti che c'erano le telecamere Axon sul petto, quindi c'erano tum, tum, tum, tum, tum, finché non hanno vuotato il caricatore, e lì è proprio l'opposto che da noi, capito? Però ci passano molto spesso i neri, capito? In America se sei nero e povero rischi di più, molto molto di più. Ma io ho visto su internet questo qua a petto nudo, stava rompendo tutte le macchine e cose, sono arrivati i poliziotti e cosa hanno fatto? Più che guardarselo cercavano di acchiapparlo e lui subito andava avanti e loro tornavano indietro. Erano due pattuglie e non riuscivano a bloccarlo, immaginati. Ma allora il taser cosa gli erano dato a fare? Quello, se la persona è incontenibile, devono usare il taser, almeno quello cade a peso morto e hanno il tempo di ammanettarlo, mentre quello dalle scariche, tu puoi toccare anche la persona, non prendi la scossa tu e mettergli le manette, non lo so, non si sa. Il problema è che se uno è malato di cuore col taser, quello che dici tu, se viene sparato ci può rimanere e poi si prendono le conseguenze se ci rimane. Vabbè, peggio per lui, però se era malato di cuore se ne stava calmo e buono, non andava a petto nudo in giro a sfasciare macchine, allora bisogna ragionare così. Vabbè, in Italia, vabbè, siamo la barzelletta d'Europa, dai. Poi non so come sia in Francia, come sia in Germania, non lo so. È rigida sia in Francia che in Germania. Quando fermano le macchine è una legge molto rigida. Non lo so più di tanto, mai come negli Stati Uniti devi stare attento, per esempio al posto di blocco devi tenere le mani sul volante, cioè devi far vedere che le mani poggiate sulla, non devi fare movimenti bruschi, se ti chiede di prendere i documenti li fai vedere con calma che apri il cassettino, fai vedere che estrai quello che devi estrarre, no? Porta documenti, ma non fare così bruschi perché a seconda di chi trovi inizia a sparare e ti crivella. E in mare degli Stati Uniti ci sono le armi facili e quindi trovano tutti i tipi di gente e quindi sono prevenuti, capito? Sì, e poi ci sono le gang lì, bande, gli ispanici, capite, latini voglio dire, i cosi, è un casino là, è un casino, lì ad alto rischio, soprattutto nelle metropoli tipo Los Angeles, New York, tutte le metropoli, dai. Ciao ragazzi, sì sì, ma vabbè, ci sono queste cose nelle scuole che anche i ragazzini sono armati, prendono la pistola, minacciano gli insegnanti, gli alunni, li sequestrano, fanno casini, ma di cosa se ne senti niente? Oh, poi in Texas non ne parliamo, in Texas hanno tutti il grilletto facile. Allora impari, in Texas basta che uno calpesti il tuo giardino, cioè magari non è nemmeno confini, non è nemmeno recinto, se uno entra nel tuo giardino della villetta, tu sei legittimato a sparare. E ci sono stati già casi per cui uno magari, che ne so, era mezzo bevuto, ha sbagliato casa, come è successo qua, che c'era gente magari che non era in buone condizioni, ha sbagliato casa e magari ha cercato di aprire la porta con la chiave all'appartamento di qua, no? Oppure ha bussato, insomma, fatto sta, qualcuno è entrato nel giardino di qualcuno e qualcuno prontamente gli ha sparato, perché lì sembra che non aspettino altro, capito? Oppure è successo anche che una ragazza abbia sbagliato macchina, è entrata istintivamente in una macchina che credeva la sua o quella del ragazzo, questo si è visto una ragazza, capirà che minaccia, una ragazza che entrava nella macchina, prende e le spara direttamente senza chiedere nulla. Se hanno il grilletto facile in Texas, mi non te ne dico niente già, sembra che non aspettino altro. Sono esalta. Esaltati a dire poco, perché alla fine gli americani, tutta questa libertà che loro dicono di apprezzare, è giusto la libertà di possedere e portare armi, non gliene frega niente del resto. Sì, ma là c'è il secondo emendamento che dice che l'americano deve essere armato, per forza, per potersi difendere, era nata questa legge, per difenderci dagli stranieri, da quelli che volevano occupare l'America, ed è per quello che loro sono liberi. Invece, mentre là è un diritto, qua è una concessione che ti fa lo Stato di poter avere un'arma, capito? Invece là è un diritto proprio, tu vai, se sei una persona per bene, e te la compri, e la puoi tenere in macchina. Invece qua, per esempio, avere armi in macchina è vietato. Però vedi, da noi solo i delinquenti sono armati e le forze di polizia, il cittadino no, vabbè. E da un estremo all'altro, diciamo, dai, da un estremo all'altro. Qua ti volevo dire, poi vabbè, uno la può tenere a casa, però anche lì, se vai a usarla, hai visto, ti chiedono anche danni. Se ammazzi il ladro, il romeno che ti entra in casa, in villa a rubare, e lo ammazzi, poi i parenti ti chiedono i danni, come che tu avessi ammazzato un lavoratore che stava lavorando, no? Per la perdita economica che ne subiscono, ti chiedono i danni, e gli danno ragione, il colmo è quello. Gli davano ragione, adesso c'è la nuova legge della legittima difesa, se tu lo ammazzi dentro casa tua non ti fanno un cazzo, manco il processo ti fanno, però deve morire dentro casa, se tu lo insegui cazzo ti danno l'ergastolo e devi risarcire pure i danni, tu non lo devi inseguire, se lui se ne sta scappando lo devi dare andare, però invece se ti sta aggredendo in casa allora lo puoi sparare. Beh, quello è sì, quello è ovvio. Poi c'era un tizio, non so chi era, che da terrazzino aveva sparato nella schiena a due ladri in fuga, con una 357 Magnum, e uno l'aveva ammazzato. E quello però, vedi, non è difesa, quello proprio ha avuto il tempo di affacciarsi al terrazzino, prendere bene la mira, e gli ha sparato nella schiena mentre scappava, e quello è stato ovviamente condannato. Infatti ti condannano, perché tu non lo puoi sparare se se ne sta scappando, capito? Non è legittima difesa quella, quella sei proprio tu che lo vuoi ammazzare. Invece se uno ti sta aggredendo dentro casa tua, che entra senza essere invitato, allora lo puoi sparare. A quel gioielliere, perché l'hanno condannato? Per quel motivo lì, perché lui li ha inseguiti. Cazzo. anni. Deve pagare i danni quello lì. Perché tu non puoi inseguire una persona, perché qui nella legge è fatta male, non c'è scritto le pertinenze. Se ci fossero state le pertinenze della proprietà, allora anche intorno alle pertinenze lo puoi sparare perché sei in casa tua. Invece no, le pertinenze non sono comprese, quindi se non vuoi dentro casa tua, si è tu fuggi, da caro fuggi, a chi ti condanneggiano. Così e le pertinenze non valgono. No, se nella legge non mettono le pertinenze, per esempio se io sono in campagna mia, no? L'abbiamo provato? Fuori da casa mia ci sono le pertinenze, no? Dove c'è il patio, se io lo sparo nel patio non sono in casa mia e mi condannano, è quella la fregatura, perché devono mettere la proprietà e le pertinenze nella legge. Tu non lo puoi inseguire a uno e tantomeno sparargli nella schiena. In America lo stesso, non puoi sparare nella schiena a uno, se no ti condannano. Solo la polizia ti può sparare alla schiena, capito? Anche lì se sbagli, baghimi in America, non hai compreso. Sì, se chiudono un bianco, se un nero chiudono un occhio, magari anche l'altro occhio chiudono. No, se lo spari nella schiena, la polizia solo può sparare nella schiena a uno che sta scappando. Lì se sbagli paghi, sono più severi di qua in America, non ti credere, se sbagli paghi, se invece hai ragione, che vedono che la cosa è chiara, manco il processo ti fanno. E praticamente Gianni è una rogna detenere armi, alla fine poi deve essere arma comune per difenderti. Uno l'hanno condannato, tolto le armi e credo anche condannato perché si era difeso in casa sua con un'arma sportiva, cioè una pistola vera e propria catalogata come sportiva, e quindi non essendo arma comune da sparo e quindi per difesa gli hanno tolto le armi e forse anche condannato. Ma vedi che è una barzelletta l'Italia, è un paese canaglia, il paese canaglia contro i suoi stessi cittadini ovviamente. Riprendi Gianni. Deve scegliersi l'arma per difendersi, non ho capito. Se uno c'ha quello in casa usa quello, non ho capito. Una sportiva non va bene per difendersi. Per esempio se tu spari cartucce ricaricate non sei in regola. Devono essere cartucce comprate per poter sparare. Ha capito? Anche quello c'è il difetto. Quindi quello che fai tu non è in regola, non è regolare. No, se me le carico io sono sportive le cartucce. Quindi tu non le puoi sparare contro una persona. Hai capito? E anche lì c'è l'indipo. Guarda, ci sono più leggi che cose in Italia. Cucci, grazie. Io infatti ce le ho una scatola di quelle comprate, ce le ho. Proprio per quel motivo. Sì, qua fanno le leggi male, cioè leggi che possono essere interpretate in un modo o nell'altro, cioè una legge scritta bene non deve dare adito a interpretazioni fantasiose. La legge dice quello e quello si fa, si applica. Qua fanno le leggi che contraddicono anche le altre leggi, capite? È tutto un pasticcio. Anche questa storia delle pertinenze io non la sapevo, cioè se io sono nel mio garage, tipo che è pertinenza dell'abitazione, uno viene ad ammazzarti, tu in teoria anche se avessi un'arma non potresti difenderti, è una barzelletta quella, perché il garage è pertinenza, sei sempre a casa tua. Le leggi sono fatte male, Marco, ecco perché ti sto dicendo delle pertinenze, di tutte queste cose, perché è così, sono leggi fatte male. La legge non deve dare adito a interpretazioni, deve essere chiara e limpida. Ma è 150 anni che facciamo leggi, ma sono fatte tutte a pene di cane. E a pene di segugio proprio. Quello volevo dire, segugio, a pene di segugio. Non è possibile che una legge vada contro l'altra. Per forza dopo non ne capi i piedi, perché il giudice interpreta, il giudice non deve interpretare un cazzo, la legge è quella e quella si deve applicare. Boh, adesso sono vicino a casa, come mi sentite? Sempre una bomba. Va bene questa antenna, Marco, prenditela. 6, 9, 20. Cavolo, 9:20, credo che fosse a Piazza Vecenia ancora. E quindi sì, perché poi già sarà come la CTE che ho già, la Midland. Ma era per averne un'altra, magari non identica, ma equivalente da tenere. Conta naturalmente che magari non sono 4 watt, no? Sarà qualcuno in più, perciò il segnale è anche più forte. Ma io te l'avevo detto questa cosa qua. Io a Piazza Vecenia mi sono spostato perché c'era troppo caldo, stavo bollendo, ma sono venuto qua vicino a casa dove c'è un albero che fa l'ombra e si sta bene, dai. Fra un po' dice anche, ci sono feste in arrivo, una festività c'è il 25 aprile, che credo sia festa almeno per i pubblici uffici, poi il 1 maggio festa dei lavoratori, quindi credo sia rosso sul calendario, chissà che il tempo sia buono, però ho visto le previsioni a qualche giorno e in arrivo mi pare qualcosina di tipo pioggia, boh. Non si sa mai, cambia dall'oggi a domani. È un po', diciamo, il tempo è instabile, dai. Infatti è quello che ti fa venire malati. Signori, io vi saluto, vi ascolto, però devo andare a cucinare, se no non si mangia oggi. Mi dispiace, sarei voluto rimanere ancora un po', perché ancora non c'ho manco più, tra un po' già mi vengono, però perché passa l'effetto, lo imbruffo e mi viene. Vabbè, là, ci sentiamo alle prossime, là, stasera se coincide, se entrate, già sarò all'ascolto. Ok Natali, dai, buona carica quando la fai. E tu stai cominciando adesso a cucinare perché mangi troppo. Invece se ti fai una fettina come faccio io, un po' di salata, due arancia e fatto io. Cosa mangi troppo? Io mangio pochissimo lo stesso. Già sto attento. Oh yeah. Vabbè là. Ci sentiamo. Vi saluto e vi ringrazio per il QSO. Ci sentiamo alle prusse. Ciao Natali, ciao, ci sentiamo, dai. Avanti Marco. Ciao Natalino, buon pranzo, buona preparazione e ci sentiamo quando capita, dai, tanto so già che stasera non entrerò e poi vediamo, poi mi faccio il bagno prima di pranzo, mi preparo il bagno, me lo scaldo un po', eccetera. Io ho già fatto la doccia, sono bello fresco. Sì, praticamente la mia è una doccia, ma è così lunga, mi dilungo e praticamente è come un bagno. No, a me Marco mi è sempre piaciuto stare a mollo per un po' di tempo nella vasca e poi farmi anche la doccia. Però non mi fido più perché sono caduto una volta, ho annaspato due volte, ho sbattuto prima il sedere al bordo della vasca e poi la testa in terra. E me l'ho vista tutta, stavo per svenire. Di una pericolosità la vasca, anche a me certe volte sono stato sul punto di scivolare, l'importante è che hai sempre punti di appoggio, maniglie, roba del genere, mai sbilanciarsi troppo quando sei in piedi, d'altronde poi c'è anche il sapone, comunque sì, quella è lo stesso, è una buona cosa, ammorbidire prima la pelle rimanendo in ammollo, così si ammorbidisce tutto e poi come fai la doccia, chiudi un po' di spugna, la pelle morta viene via bene. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Ciao Gabino, ben entrato. Comparire Marco e Gianni. Natalino, va bene, è andato a cucinare. Avanti Gabino. Gianni, sono entrato. Gianni e Marco, buongiorno, sono entrato per i saluti. Dai. E per darti il controllo, Gianni. 6, 9 più 20 e Marco è 9 più 15. Per radio Super 5 per tutti e due. Di nuovo col buongiorno, vai Gianni. Ehi Gabi, dai, io sono in macchina. Sono in macchina con quell'antenino piccolo che avevo acquistato ultimamente. Io sono contento che va bene questa antenna perché è piccola e rende, fa molto bene. specialmente se si adegua con questo apparato qua. Dai Gabi, se vuoi restare non c'è problema, se no ci fa piacere che sei entrato a salutarci, dai. Sono entrato, ti ho sentito che eri in barra mobile, dai, quindi sono entrato per darti, anche se non me l'hai chiesto, però un controllo dalla mia postazione. Qua 9:20 Gianni, Radio Super 5, bella, tutto positivo. Tutto positivo, sì, va bene volantinino già, va bene, hai fatto l'ultimo acquisto. Vai Marco, riprendi, buongiorno anche a te. Ciao Gabino, prima avevamo parlato assieme per un pezzo, ben entrato, appunto Natalino è andato a cucinare e poi a fare lavorare le mascelle e quindi ben entrato, dai, e stavo parlando un po' di tutto. Stavo ascoltando e stavo facendo roba fuori, stavo invece spugliando e le radio erano accese, quindi vi ho sentito. Saluti anche a Natalino se sei in ascolto, buon pranzo, buona carica. Anche tu Marco, Radio Super 5, segnale 9:15, dai, alla grande, riprendi. Sono liscio, sono con i 3 watt, quanto è, insomma, poi più il cavo, alla fine saranno 2 watt in antenna come al solito, non c'ho nulla sotto, sto usando il 3009 col mic originale. Cappa, tu arrivi bene come al solito, magari il segnale non così forte, ma d'altronde questo è uno smitter di baracchino di quelli 8,5 da qua, però corrisponde bene o male in tutti i baracchini, il segnale è sempre quello. Sicuramente stai usando lo smitter serio, là, già hai capito. E poi che altro? Di cosa stiamo parlando prima? Gianni, che non è tanto un antennino, è 1,5 metri almeno di antenna, non è antennino ino, è sempre 1,5 metri, che poi messo sulla capota sembra ancora più grande, già rendono le antenne. Infatti io raccomando sempre di non scendere sotto il metro o sotto il 1,5 metri se vuoi arrivare bene, capito, in distanza. Marco, è 3 volte più fino della Turbo 2001, è 3 volte più fino, più leggero, più maneggevole, più tutto, anche se l'altezza più o meno, la Turbo 2001 è 1,80 m, però l'antenna è antennino, nel senso che è leggera, un'antenna leggera, io sono andato a 160 con la macchina e non si è mossa di 1 mm. Però sì, è più maneggevole, però il fatto che sia più fino, a parte i watt, cosa ti cambia? L'importante è che ci sia la lunghezza, poi se è più sottile ti ricordi cosa cambia, a parte i watt che può reggere, il conduttore più sottile cosa comporta? Ma niente, perché io vedo che l'antenna rende ugualmente, per cui ti dirò di più che ho provato la Turbo 2001 a fianco a questa, mi sono fatto dare un controllo da Luca e arrivavo 2 segnali in meno con la Turbo che con questa, figurati, l'ho comprata subito per quello. Vabbè, te lo dico, la larghezza di banda influisce, che se la Turbo, che ne so, magari ti teneva, che ne so, 160-200 canali, magari quello te ne tiene come larghezza di banda 120, dai, però va bene lo stesso. Ma chi ci va in banda e cose? Io sono sempre sul canale 10, che me ne frega, va che non le devo mettere, per cui a me va benissimo questo. Sì, lo so che la larghezza della banda influisce, se tu usi canali alti, se usi banda laterale, eccetera, ma qua io non ne uso solo la M, il canale 10, poi qualche volta a 12, qualche volta a 23, ma non di più. Sì, adesso rilancio Gabino. Una volta si usavano già, ti ricordi, per scappare dalle portanti, ma parlo degli anni 80, poi anche i portantisti si sono dotati di apparecchi multicanali e non si poteva più scappare da nessuna parte, si andava chi all'40 sotto, chi all'80 sotto, chi quasi al 90, là, in prossimità dei 28, capito? Però alla fine poi non si scappava più. Riprendi Gabino. Infatti, no, vabbè, l'antenna riguarda l'utilizzo che si fa. Se a lui gli interessa stare dentro i 40 canali dalla 27, quindi non ha stazionarie nella, diciamo, nell'intera banda dalla 27, dall'1 al 40, va bene a tenere quella lì. La turbo 21 si fa da 26 a quasi 28, poi se a lui interessa andare fuori banda sui 45, queste cose qua, basta che la tara fatta per quei canali lì e la usa, però va bene, rendimento in watt, intanto caricare più di cosa devi caricare, se non c'è propagazione non verrà nessuna parte, almeno io la sto pensando così. Una volta che hai che ti vuoi divertire, che c'è propagazione, vuoi fare un po' di sbarone, bastano quei 100 watt e ti diverti tanto. Gianni, ma sei con la base magnetica? Interrogativo. Sì, base magnetica. Questa antenna qua, tu quando l'acquisti c'è la base magnetica di quelle a vite. Praticamente te la danno dalla casa. Compreso nei 32 euro che spendo, 36 che fosse. Ti danno tutto, ti danno la base magnetica con la filettatura e tu ci avviti l'antenna sopra. Vanno bene. Sono belle anche quelle a 3, quelle base magnetiche a tre calamite. Vabbè, io non ho niente baramubile, io non ho niente, però ho visto che ci sono tanti tipi di base magnetiche che stanno facendo, e soprattutto sono forti, molto forti. Ma secondo me la turbo 2001 in veicolare è anche esagerata, non è per niente. Quella che c'è tu sicuramente va anche bene per mettere in barra pesante, basta tararla se si vuole stare un po' più su con i canali, perché è leggera, non va a essere invasiva sulla staffa, non ti piega la capota, non c'è pericolo che la perdi. Logicamente poi uno se vuole usare molta più alimentazione antenna deve andare più sul pesante, ma come per l'uso che fai tu, se li vuoi mettere anche 200-300 watt, quell'antenna è la grande, no, sempre 920 già, segnale fisso, bello, e la radio è 5. E Marco, ma le radio ti sta arrivando bene lì da te? Sì, benissimo. Bene, niente da dire. Perfetto. No, vabbè, il segnale non mi interessa, provate che la radio sia chiara e comprensibile al 100%. Va bene, rilancio Gianni e io però adesso devo chiudere le trasmissioni perché stavo decespugliando qua fuori e mi devo fare una bella doccia. Qua in campagna c'è sempre da fare. Per i fuorassacchi, per la gramigna, per l'erbe, perché i cani adesso iniziano a... quando stanno fuori si secca questa erbaccia e la bisogna tagliare e raccogliere e fare pulizia per bene, altrimenti i veterinari si fanno le tasche d'oro. Riguardo al discorso che avevate poco fa delle armi, Marco, io dico sempre una cosa, ognuno deve starsene a casa sua, perché secondo a casa di chi vai puoi trovare quella cosa che ha due occhi, anche un occhio, che ti saluta, che ti vede bene da lontano. Però anche come dice Natalino, è vero. Devi difenderti dentro casa, dentro le mura domestiche. In Italia è tutto a favore dei malviventi, però speriamo non succeda mai, perché poi una persona per bene si rovina e i giudici sono in favore ai criminali. questo è quello che penso io. Signori, io sono entrato per un saluto, mi ha fatto piacere, anzi sono entrato per salutarvi e per dare il controllo a Gianni, perché la volta scorsa sta provando l'antenna e non so se lui si ricorda, di sera l'ho accompagnato per un tragitto che lui stava facendo. Già, il segnale è sempre quello, forse la volta scorsa eri più aperto per me quando sei andato in quelle zone, diciamo, che stavano aprendo una persona, eri 9.25, 9.30, ma mi stai arrivando benissimo, 9.20, lascia l'antenna che è tutto positivo ed è perfetta. Di nuovo, io vi saluto, scusate l'intromissione, ce la risentiamo alle prossime. Riprendi Gianni e farà girare per Marco. Buona domenica e buon fine settimana, buon pranzo e buon tutto. Ciao ciao, saluti qua da Lavino, periferia di Sorso, 27075. Ciao, riprendi Gianni, buona giornata. Ciao Gabi, ci sentiamo, dai, ci ha fatto piacere sentirti, fatti sentire più spesso, dai. Avanti Marco. Ciao Gavino, buon proseguimento di giornata, buon tutto. Entra quando vuoi, questa è casa tua. Ciao. Ciao a tutti, buona serata, buona giornata e grazie. Alle prossime, buon pranzo. Ciao, ciao Gavino. Io adesso sto scendendo verso casa, non so se il segnale è aumentato o diminuito. 9.25. Adesso sono sotto casa. Stai da picchi 9.20 a 9.25 modulazione già. Buono, va bene. Tanto è vero che mi stavo scaricando la batteria con Maro Fermo, che non pulia più molto la macchina. Vabbè, la fermo, basta che scendano gli apparati, basta che l'alimentazione vada anche a 12 volt, 12 volt, e poi cala di prestazione. Comunque, usa la macchina in moto, già metti il pieno e lasciala in moto, intanto già c'è la specie del condizionatore, così entra la doppia ventola e il motore neanche scalda. Dai, di nuovo, buona giornata, alle prossime. Ciao, ciao Gabi, buona domenica. Dai, sto andando via anche io che sono andato a portare. Ciao Marco, buon pranzo, buon pranzo. Ciao già, comunque oscillante tra 9.10 e 9.15, l'ultimo passaggio è 9 più 15, quindi già è buona lì. Poi con l'aiutino, cioè con l'apparato performante, è ancora più performante, ok? Ci sentiamo già, buon pranzo, buon tutto. Ciao ciao Marco, ci sentiamo, buon pranzo anche a te, dai. Buon pranzo a tutti, buona domenica, che ti sta ascoltando. Ciao, ciao Natalino se ci sei.